Ciao a tutti, qui comincia una nuova puntata di Più di Mille Immagini. Grazie per aver scelto la nostra compagnia. Napoli in farmacia. Stasera vi parleremo di viaggi. Sapete dove preferiscono andare in vacanza gli italiani? Secondo voi meglio il caldo delle mete esotiche o lo charme e la cultura delle capitali europee? Tra le mete più gettonate si trova al primo posto Stoccolma, seguita da Parigi, che non perde il suo fascino per tutti gli inguaribili romantici. New York e Londra occupano il quarto e quinto posto, indubbiamente legate ad un'oggettiva convenienza economica. Il mio dolce amore. In calo invece le altre tradizionali destinazioni europee come Amsterdam, Praga, Berlino, Barcellona e Madrid. E tra le mete lontane ed esotiche spicca L'Avana. Circa il 3% degli utenti di easyviaggio.com ha ricercato un volo per Cuba, probabilmente desiderosi di un po' di caldo. Vi piacerebbe andarci adesso? Grazie alla magia della radio è possibile. Anna e Xkel sono già pronti in studio per farci viaggiare a Cuba. Buonasera e a voi la linea. Buonasera a tutti e bentornati ancora ad una nuova puntata del nostro programma dedicato a coloro che sono interessati alle lingue e alle tradizioni a esse legate. Oggi vogliamo rendervi partecipi della scoperta di un'isola a noi tutti nota, e ciò avverrà dalla mano di una nostra abituée della scuola, alunna d'italiano. Buonasera, Xkel. Buonasera. Inizieremo dunque un percorso per cercare di avvicinarvi a una bellissima isola di cui Xkel è originaria. Sì, infatti, e ne vado fiera. Stiamo parlando di Cuba. Senti, Xkel, tu sei cubana, ma di dove di preciso? Sono proprio della Habana, che è la capitale di Cuba, dove ci sono circa 2 milioni di abitanti e dove si trova il maggior flusso turistico di tutta l'isola. E da quanto tempo sei in Spagna? Sono qui in Spagna da quasi 4 anni. Sono venuta perché considero di aver conosciuto l'uomo della mia vita, il quale è ovviamente spagnolo, e per questo motivo decisi di trasferirmi e stabilirmi qui con lui. Ah, che bello. Credi di esserti adattata facilmente? Veramente mi sono adattata velocemente. Cuba fu una colonia spagnola e perciò le tradizioni sono abbastanza simili, molte delle quali conserviamo ancora. La lingua è la stessa tra le due nazioni e la gente è uguale, gentile e simpatica. Il clima mi ha colpito in modo forte per quanto riguarda il freddo che fa qui ad Albacete. Come sapete, le condizioni meteorologiche a Cuba sono l'umidità e il caldo. Noi diciamo che a Cuba c'è una sola stagione, che è appunto l'estate. E cos'è che ti manca di più? Quelli che mi mancano di più sono i miei. Penso a loro tutto il tempo perché hanno un'età avanzata e mi preoccupo tantissimo. Un'altra cosa che ricordo è il cibo. Per me la cucina creola rappresenta i sapori con cui sono cresciuta e mi piace davvero. Mettiamo un attimo i due paesi a confronto. Quali sono le differenze che spiccano appunto alla vista dei due modelli di vita diversi? Un primo punto sarebbe la quantità dei negozi. A Cuba non ci sono così tanti. Io direi che ce ne sono veramente pochi. In un secondo momento potremo parlare della pulizia delle città spagnole. Questa è un'altra cosa che mi ha colpito in modo positivo, chiaramente. Per esempio, io non sapevo che si facesse la raccolta differenziata, un fattore importante per evitare l'inquinamento. Mi sorprende anche il modo di costruire. Mi riferisco al tipo di costruzione, che, in linea di massima, sono maggiormente palazzi. Non ci sono case col giardino come a Cuba. Tutti siamo consapevoli del fascino che desta Cuba nel turista amante del caldo, oltre che delle spiagge mozzafiato. Molti sono i motivi che possono dunque spingere a visitarla, ma nessuno potrà dire di conoscere Cuba prima di esserci stato ed averne assaporato dal vivo l'atmosfera. Ma quali sono i motivi che rendono Cuba così speciale? Veramente io ti direi di passeggiare per le strade della Habana, sdraiarti al sole in una delle spiagge di Varadero o sorseggiare un daiquiri nei piccoli locali sparsi lungo la costa. Tutto ciò ti regala emozioni che forse è impossibile spiegare a parole. Per quanto possiate aver accumulato notizie relative a Cuba, non potrete evitare di rimanere sorpresi. Viene voglia di andarci. Ma Cuba ha anche un altro aspetto di cui forse si parla meno, che è la povertà. E con modiche cifre si può soggiornare in alberghi di lusso e frequentare i luoghi più esclusivi. E se questo stimola il turismo, è bene tenere sempre a mente che il rispetto non ha prezzo. Facciamo un salto allora e diamo alcuni dati di interesse a livello geografico. Cuba è la più grande delle isole dei Caraibi. Ha una superficie di circa 110.000 km2 e una popolazione di circa 12 milioni di abitanti, di cui oltre 2 milioni vivono a La Habana, capitale politica e culturale dell'isola. Altre città importanti sono Varadero, soprattutto dal punto di vista turistico grazie alle sue meravigliose spiagge, Trinidad, Santiago de Cuba e Holguín, che più rappresentano il caldo sud-est dell'isola e della popolazione di colore. A Cuba si trova inoltre la base militare statunitense di Guantanamo. Sì, devo aggiungere che l'isola si trova al centro del Mar dei Caraibi, non lontana dalle coste messicane, da quelle della Florida e della Giamaica. La principale catena montuosa è quella della Sierra Maestra e la vetta più alta del paese è il Pico Turchino, che è alto quasi 1800 metri. Infatti, grazie alla conformazione del suo territorio al clima di tipo tropicale, Cuba offre ai visitatori una vegetazione ricca e varia, tra cui si possono ammirare numerose specie di piante come la palma e il Hawaii, una varietà locale del fico, e di fiori sempre molto grandi e colorati. La ceiba, infine, è l'albero più venerato a Cuba. Poi non possiamo dimenticare che quest'isola è famosa in tutto il mondo per il tabacco che cresce nel suo territorio. Dalla sua lavorazione nascono infatti alcuni dei sigari migliori del mondo, come il Coiba o il Montecristo. E cosa ci puoi raccontare della gastronomia cubana? La cucina di Cuba presenta molti elementi della cucina spagnola e africana, che si mescolano tra di loro per dar vita a piatti gustosi, anche se generalmente semplici. Sull'isola si può mangiare dell'ottimo pesce, preparato per lo più arrosto e accompagnato da salse che si fanno più piccanti quanto più ci si avvicina a Santiago di Cuba. Abbiamo inoltre ottimi frutti di mare e crostacei, come aragoste ed astici, spesso di grandi dimensioni. Sono anche molto diffusi i piatti di carne, soprattutto pollo e maiale, che si gustano con il riso, i fagioli neri e il mais, ingredienti che sono alla base dell'ajiaco, il piatto nazionale. A causa della presenza di una comunità cinese numerosa, maggiormente a La Habana è possibile provare piatti della cucina orientale. Direi che piatti del genere dovrebbero essere accompagnati da qualche frutta locale. Ma certo, potremmo sempre mangiare dei manghi, qualche papaya, avocadi oppure piccole ananas. Ce ne sono anche delle banane, molto più piccole rispetto a quelle che si trovano in Europa, ma estremamente dolci e saporite. E per chiudere in dolcezza, proponiamo ai nostri ascoltatori un bel cocktail. Infatti i lime, che sono, diciamo, limoni di piccole dimensioni dal colore verde, hanno una polpa molto succosa e li possiamo usare per le composizioni di diversi cocktail come il mojito. Tra le bevande trova larga diffusione la birra nazionale, che si può trovare sia nella versione chiara, più leggera, che scura, decisamente più corposa. Ma la bevanda per eccellenza è il rum. E come? Il ron è un destillato della canna da zucchero che viene prodotto in varie versioni delle principali case, tra cui sicuramente il più rinomato è l'Añejo, l'invecchiato, che acquista in gradazione e profumi e resiste meglio all'invecchiamento. Che poi, oltre ad essere un ottimo liquore da bere assoluto, in quanto molto gradevole, nonostante la sua gradazione, 40 gradi circa, il rum è famoso perché è alla base di numerosi cocktail. Il mojito, come abbiamo detto prima, il daiquiri e anche il Cuba Libre. A proposito, dicono che il Cuba Libre nacque per festeggiare l'indipendenza di Cuba dalla Spagna, ottenuta con l'aiuto degli Stati Uniti. Ecco perché si usò un prodotto tipico cubano e un altro degli USA. Facciamo riferimento infine all'ottima qualità del caffè cubano e, come no, è risaputo che il paese occupa un ruolo di spicco nel campo della musica. È a Cuba infatti dove nascono alcuni dei generi più belli della musica, come il son, il mambo e soprattutto la salsa, vero e proprio ritmo nazionale. Che bello, viene proprio voglia di ballare. Noi potremmo continuare a parlare a lungo, ma il tempo stringe e siamo in chiusura. Per cui, Xkel, ti ringraziamo di essere venuta e della tua partecipazione al programma. Grazie anche a voi, è stato un piacere e spero che ci sia un prossimo incontro. Ce lo auguriamo anche noi. Ciao. Ciao. Grazie per averci fatto viaggiare con l'immaginazione in questa meravigliosa isola. E adesso torniamo in Italia. In principio era Partenope, la mitica sirena dal canto ammaliatore che attirava a sé i naviganti in transito nel Golfo. A distanza di 2500 anni, Napoli è ancora una città che attrae per la sua straordinaria capacità di seduzione, per il fascino dei suoi paesaggi e l'alchimia di culture diverse che ne hanno accompagnato l'istoria. Solare, vivace, sfrontata e indimenticabile, Napoli è la musica, il teatro, il Vesuvio, il caffè, la pizza, il mare. Colori, suoni e profumi che rapiscono, conquistano, seducono. Se ci accompagnate, scoprirete la dimensione magica di questa città eccezionale e imparerete ad amarla ancora prima di conoscerla dal vivo. Alcuni nostri amici ci presentano adesso alcuni luoghi che si devono assolutamente visitare se si è a Napoli. Napoli è dove mare. Napoli è la carta sporca e nessuno. Per cominciare, vi parleremo di alcuni degli edifici attorno a cui ruotava la vita civile e politica della città. Ci accompagnate? Partiamo dal Castel Maschio Angioino, costruito verso la fine del 1200 per volere della famiglia d'Angio. Divenne un importante centro di cultura in cui soggiornarono artisti e letterati come Giotto, Petrarca e Boccaccio. Con la dinastia degli Aragona, il complesso architettonico venne arricchito di due torri e di uno spettacolare arco di trionfo. Interessante è anche la Cappella Palatina. Il Castel de Lobo è un imponente complesso fortificato del XII secolo che domina il lungomare di Napoli. Fu residenza reale per molti secoli, rivestendo un importante ruolo strategico. E infine il Castel Sant'Elmo, è una maestosa costruzione a forma di stella a sei punte risalente al 1329 e anticamente adibito a prigione, circondato da bastioni e fortini. Domina tutta la città. Dalle sue terrazze si può godere di un panorama spettacolare. Mm. Ma il modo migliore per conoscere Napoli è passeggiare per le sue strade più antiche e scoprendo le meraviglie più nascoste di questa splendida città. Inizieremo la nostra passeggiata a Spaccanapoli, chiamata così perché, vista dall'alto, divide letteralmente in due la città. Spaccanapoli appare come un rettilineo lungo circa 2 km e largo appena 6 metri. Su entrambi i lati si dirama un labirinto di stretti vicoli dotati di un fascino particolare. È la Napoli antica, popolare, sanguigna. Attraverso Spaccanapoli si può compiere un itinerario a piedi in una delle zone più caratteristiche di Napoli, che corrisponde al decumano inferiore della città greco-romana, con chiese, palazzi storici, piazze e antiche botteghe. Continueremo attraverso il Vomero. Si tratta di un quartiere estremamente tranquillo e rilassante, praticamente l'opposto di Spaccanapoli. Qui si concentrano musei, monumenti, negozi e caffè storici della città. Un'esperienza indimenticabile è quella di una scalata con la funicolare di Montesanto, da cui si gode della splendida vista di Castel Sant'Elmo e della certosa di San Martino. Da non perdere anche i quartieri spagnoli, uno dei luoghi più affascinanti della città, da scoprire poco a poco, perdendosi nel suo fitto labirinto di vicoli e strade. Quando intorno al 1530 iniziò il periodo di dominazione spagnola, la città subì molte trasformazioni. Vennero erette chiese, edificati palazzi e costruite strade, tra cui la splendida Via Toledo. Consigliamo anche Via San Gregorio Armeno, famosa in tutto il mondo come Strada del Presepe. In questa via, che collega il centro antico della città con le vie principali, sorgono alcuni importanti monumenti come il monastero di San Gregorio Armeno. In questo luogo si concentrano moltissime delle attività artistiche e commerciali della città: botteghe di scultori, argentieri, doratori e soprattutto botteghe in cui gli artigiani producono le statue del presepio, ancora oggi seguendo le antiche tecniche di un tempo. Si può anche percorrere la Galleria Umberto I, una grandiosa struttura a quattro braccia in ferro e vetro, con al centro una splendida e immensa cupola, il cui stile è simile a quello della Galleria Vittorio Emanuele di Milano. E non può mancare una visita alla Napoli sotterranea. È una città sotto la città di origini antichissime. Gli scavi hanno portato alla luce manufatti risalenti a 5.000 anni fa. Per finire, Piazza del Plebiscito, recentemente restaurata, è la piazza più spettacolare di Napoli. A forma di anfiteatro è circondata da splendidi monumenti, ricorda un po' l'abbraccio berniniano di Piazza San Pietro a Roma. Tra le chiese più belle e suggestive di Napoli evidenziamo il Duomo, costruita intorno alla fine del XII secolo, la Cattedrale di Napoli. Nel corso dei secoli ha subito più rifacimenti, attuati in parte per rimediare ai danni del terremoto e in parte per aumentarne la bellezza artistica. All'interno sono custodite le reliquie di San Gennaro, il santo protettore di Napoli. Per finire questo viaggio meraviglioso attraverso le vie di Napoli, vi proponiamo la visita ad alcuni musei per conoscere a fondo la storia e la cultura di questa città. Il Museo Archeologico Nazionale è il museo archeologico più importante d'Europa e contiene la collezione di reperti appartenente alla dinastia dei Borboni, oltre a una serie di bronzi, sculture e altri oggetti rinvenuti negli scavi di Pompei e del Colano. Il museo e galleria di Capodimonte, dove sono custodite opere dal 200 al 700, appartenenti alla collezione della famiglia Farnese, che venne poi ereditata dai Borboni. Da non perdere la collezione romana, che comprende le opere di Michelangelo, Tiziano, il Greco, Raffaello e Botticelli. E infine il Museo di San Martino, dedicato alla storia e alla cultura napoletana. Molto interessante è la sezione sui presepi, in cui sono esposte le raccolte di presepi dal 700 all'800. Da non perdere è il monumentale presepe di Cuciniello. Speriamo che vi sia piaciuto questo fantastico percorso per Napoli. Oltre a questi luoghi, ci troverete una splendida gastronomia e tanti posticini indimenticabili. Napoli vi aspetta. Beh, siamo arrivati alla fine del tragitto. Purtroppo non abbiamo più tempo a disposizione. Ora vi salutiamo, dandovi appuntamento al 31 marzo. Buon proseguimento di serata. Ciao!